Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Alessandro Bertante, scrittore milanese di cui abbiamo parlato negli anni scorsi anche a proposito di altri romanzi che aveva scritto, ve ne ricordo due, El Diavol e Nina dei Lupi, con il quale tra l'altro era arrivato fra i 12 candidati al premio Strega. Adesso lo abbiamo ospitato, invitato qui a Radio 24 per parlare dell'ultimo libro scritto che si intitola La Magnifica Orda. È un libro piccolino, insomma sono poche pagine, viene definito come dire un romanzo compatto e fa parte di una collana particolare del saggiatore che si chiama Le Silerchie, di cui poi parleremo anche meglio. Alessandro, allora, in questo romanzo compatto ci sono, diciamo, tre momenti, tre piani diversi. Il protagonista è sempre lo stesso, questo Alessio Saviero. Diciamo che nella prima parte di questo breve romanzo incontra addirittura, cioè dialoga con un personaggio storico come Napoleone. Che cosa volevi dire, insomma, con questo dialogo? E chi è Alessio? Alessio compare in praticamente tutti i miei romanzi e è un po', possiamo definirlo anche il mio alter ego, insomma è il protagonista maschile di tutti i romanzi, sia di Nina dei Lupi ad esempio, anche di Al Diavolo. In Al Diavolo è quello che scopre il manoscritto, appunto, che poi narra la storia. In Nina dei Lupi invece è il protagonista maschile. Qui Alessio vive questa dimensione spazio-temporale alterata, fuori dal tempo, e incontra appunto Napoleone Bonaparte ai limiti di una sterminata pianura dove sta approssimandosi un'orda invincibile proveniente da Oriente, di cui noi non sappiamo nulla. Poi ovviamente nel racconto, che è la prima parte della Magnifica Orda, si svilupperà una storia che vede protagonisti tutti i grandi guerrieri dell'Occidente che dovranno fronteggiare quest'orda. Poi la visione, perché questo libro è un libro molto visionario, si sviluppa anche in altri due narrazioni diverse, una ambientata negli anni Ottanta e una invece ambientata ai nostri giorni. E adesso arriviamo appunto a questi altri due piani narrativi. Appena ho iniziato a leggere questo romanzo breve sono rimasta un po' spiazzata, perché il linguaggio è sicuramente complesso, lirico, molto ricercato, bello, assolutamente si vede che c'è un lavoro di ricerca sul linguaggio, ma soprattutto non capivo dov'era Alessio. Hai creato proprio volontariamente questa sensazione di spaesamento per il lettore? Ah no, sono molto contento se un lettore capisce dov'è. Non sono riuscito nella mia impresa. No, l'idea di questa spaesamento, più che altro sospensione spazio-temporale, è assolutamente voluta e ho ricercato appunto anche nei particolari per crearla, non dando nessun tipo di appiglio al lettore per capire dove possa trovarsi, fino praticamente alle scene finali. Sì, poi alla fine si comprende il tutto, ovviamente. Sì, la sospensione è voluta, senz'altro. Ecco, questo, dicevamo, è un romanzo breve, sono 50 pagine, sicuramente bisogna leggerlo con attenzione, come dicevo prima, perché appunto c'è un linguaggio molto, molto ricercato. Nella prima parte quindi Alessio dialoga con Napoleone perché c'è una battaglia in corso, e tra l'altro tu citi anche altri personaggi storici che partecipano a questa battaglia, li fai convivere nello stesso spazio temporale, diciamo. Perché hai deciso di puntare l'attenzione sull'idea di una guerra e dell'orda che arriva? Ma io negli ultimi lavori, anche nei prossimi, sto cercando di portare avanti una riflessione sulla decadenza occidentale, intesa proprio decadenza civile più che politica oppure economica, come agli occhi di tutti negli ultimi anni. I fatti recenti d'Italia lo dimostrano in maniera abbastanza plateale. Io credo che la cosa sia più profonda e che quindi nei periodi di grande decadenza di una civiltà, e noi siamo una civiltà che ha fatto tanto negli ultimi secoli, si vada un po' a ricercare le origini della perduta grandezza. Quindi noi non dimentichiamoci, come Occidente nasciamo come, purtroppo mi duole dirlo, ma come aristocrazia guerriera, e quindi che ha conquistato gran parte del mondo, nel romanzo, nella Magnifica Orda, vado a ripercorrere i grandi personaggi di questa aristocrazia guerriera, ma comunque il finale anche di quel particolare pannello, come ha detto qualche critico, non è poi così militarista, ecco, certo. Ma tutt'altro. E arriviamo così al secondo pannello, sempre lo stesso protagonista. Alessio si trova a Milano e cerca lavoro. Lui fondamentalmente è disoccupato, insomma. Ah, sì. Che tipo di esperienza vive Alessio? Alessio vive un'esperienza credo molto riconoscibile in questi anni, perché per chiunque si approcci al mondo del lavoro e abbia dai 25, ma mio malgrado posso dire anche 40 anni, perché mio malgrado dico la mia generazione, è sostanzialmente si riconoscerà in questo racconto, che è descrive un qualsiasi colloquio di lavoro di una persona peraltro qualificata che, per una qualsiasi ragione che non sto neanche a raccontare, ha perso il lavoro che aveva e non riesce a trovarne un altro. Quindi non solo c'è il problema dell'inserimento nel mondo del lavoro dei neolaureati eccetera, ma anche della riqualificazione di chi per una ragione o per l'altra, ma quasi sempre perché falliscono le ditte, perde il lavoro. Quindi diciamo che è più legato al presente, ma fa parte sempre ed è collegato al primo pannello, in questa idea di decadenza, di mancanza di prospettiva di un futuro. E questa decadenza si ritrova poi in un certo senso anche nell'ultimo pannello, quello in cui Alessio incontra un personaggio milanese noto, che però insomma per i non milanesi non è conosciuto. Ci vuoi spiegare chi è questo personaggio? È un personaggio famigerato, chi ha almeno 40 anni se lo ricorderà, perché si tratta di CT, che era questo poeta vagabondo che andava in giro a scrivere con la vernice bianca "Chiesa assassina che uccidi con l'onda" o "Il Vaticano che uccidi con l'onda", e aveva un carretto con tre cani, era molto, molto conosciuto in città e lo è stato per molti anni, perché le sue scritte erano praticamente indelebili e fino alla fine degli anni 90 si vedevano in molti spazi pubblici di Milano. Lui faceva tappa fissa, andava in giro perché era mobile, ma tappa fissa al Castello Sforzesco e al Parco Sempione, dove lo incontra appunto Alessio. E CT è uno dei primi, appunto secondo Alessio, cantori di questa decadenza, di questo arrivo dell'Orda. Abbiamo detto che questo romanzo breve, circa 50 pagine, fa parte di una collana particolare pubblicata dal Saggiatore, che si chiama Le Silerchie. Allora abbiamo chiesto di che cosa si tratta all'editore del Saggiatore, Luca Formentona. Sentiamolo. È un ritorno di un'antica collana. Come ho scritto nella nota che accompagna le prime volumi, torniamo all'antico, sarà un progresso, come diceva Verdi. E questo è un caso, perché la collana Le Silerchie, che nacque alla fine degli anni 50, una delle prime collane del Saggiatore, fondata da mio zio Alberto Mondadori, e oggi rinasce. È una collana di fogliazione breve, fra le 80 e le 100 pagine, molto curata dal punto di vista del prodotto, è rilegata con cucitura, risguardi colorati, cose che non si usano più, ed è, come era l'ispirazione iniziale, una sintesi di narrativa saggistica, piccola serie d'arte, racchiuse fra le 80 e le 120 pagine. Si tratta di inediti o anche di cose già pubblicate? Per la maggior parte si tratta di inediti, ma attingeremo anche dal vecchio catalogo storico delle Silerchie, per cui diciamo che fra molte novità ci sarà anche qualche ripubblicazione, sempre per tener fede al motto verdiano, di vecchi volumi delle Silerchie. Essendo volumi diciamo brevi, il costo in genere è sui 10 euro. L'avete fatto anche per contenere i prezzi, come stanno facendo un po' anche altri editori in questo momento? Vorrei rispondere quello che rispose mio zio Alberto a proposito del prezzo delle Silerchie negli anni 60. Il prezzo delle Silerchie è quello che contraddistingue un buon prodotto industriale, cioè il miglior prezzo possibile come beneficio al consumatore del miglior prodotto possibile. Per dirla comunque in modo contemporaneo, ci aggireremo fra i 10 e i 12 euro a seconda delle foliazioni. E questo era Luca Formenton, editore del Saggiatore. Tornando ad Alessandro Bertante qui in studio. Alessandro, prossimo romanzo, ci puoi anticipare qualcosa? Sì, senz'altro. Innanzitutto voglio dire che sono molto fiero di essere la prima uscita del Nuove Silerchie, per quanto diceva appunto giusto, Formenton. Luca Formenton, che appunto per il livello qualitativo alto della collana. Il mio prossimo romanzo credo abbastanza con certa sicurezza che esca nei primi sei mesi del 2013 per Rizzoli in questo caso, e è un romanzo ambientato a Milano. Il protagonista però è sempre Alessio Slaviero, non voglio deludere nessuno. Lo ritroveremo quindi anche nel prossimo romanzo. Grazie ad Alessandro Bertante. Ora in libreria con La Magnifica Orda, pubblicata dal Saggiatore nella collana delle Silerchie. Vi ricordo come sempre che ci trovate su internet www.radio24.it. Se volete ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.